Incontri di Gianfranco Fabi. Kathy, I said as we boarded a Greyhound in Pittsburgh, Michigan seems like a dream to me now. It took me 4 days to hitchhike from Saginaw. I've come to look for America. America di Simon Garfunkel. Buongiorno, buon pomeriggio, buona domenica a quanti ci ascoltano. Buongiorno e buon pomeriggio a Simone Crolla. Buon pomeriggio a te Gianfranco. America di Simon Garfunkel, per introdurre Simone Crolla, che è consigliere delegato della Camera di Commercio americana in Italia, oltre ad altre cose che magari vedremo più avanti, ma il suo attuale impegno prioritario è quello di essere appunto al vertice della Camera di Commercio americana in Italia. Simone Crolla, come mai è arrivato alla Camera di Commercio americana in Italia? Allora, è una bella domanda perché anche io me lo sono chiesto, è un sogno che ho realizzato perché sin da piccolo amavo gli Stati Uniti, conoscevo a memoria tutte le capitali degli Stati federali, così senza che nessuno me lo chiedesse neanche a scuola, proprio facevo dei miei viaggi fantastici sull'Atlante e poi un bel giorno di 4 anni e mezzo fa arriva il classico Ed Hunter, io ero in un momento diciamo di pausa tra una cosa e l'altra e mi dice c'è questa opportunità, che cosa ne pensa? Ne penso ogni bene possibile e da lì probabilmente anche per diciamo mancanza di alternative hanno preso me. Che cos'è la Camera di Commercio americana in Italia? Innanzitutto abbiamo fatto 98 anni proprio qualche giorno fa. La Camera di Commercio americana in Italia è un'istituzione nata appunto nel 1915 con lo scopo all'epoca di essere un po' un'ambasciata economica degli interessi americani che già allora cominciavano ad arrivare in Europa e anche in Italia. E quindi è un'istituzione essenzialmente americana. È un'istituzione americanissima di diretta emanazione dell'American Chamber of Commerce di Washington che è la loro Confindustria. In Italia abbiamo la forma giuridica dell'associazione italiana, eccetera, però siamo una diretta emanazione di quella americana. Ce n'è una in ogni stato al mondo, in Europa sono raggruppate nell'organismo, diciamo, di coordinamento europeo e di fatto dall'epoca abbiamo accompagnato gli investimenti americani nel nostro paese. Quindi è qualcosa che si affianca all'ambasciata americana, al consolato americano, sì. E quindi una realtà che privilegia la realtà economica e che quindi ha una forma, diciamo, privata più che pubblica. Come è una forma privata. Assolutamente, noi siamo molto allineati, vicini al consolato e all'ambasciata, l'ambasciatore è il nostro presidente onorario, chiunque esso sia, però siamo una cosa diversa da loro, ma c'è una collaborazione, una compenetrazione direi pressoché totali. Ecco, ma Ed Hunter che ha trovato Simone Crolla e gli ha indicato di fare il consigliere delegato della Camera di Commercio americana in Italia, come mai ha pensato che Simone Crolla avesse le caratteristiche giuste e la passione giusta per guidare un'organizzazione di questo tipo? Ma ti dico che questo Ed Hunter poi è stato licenziato, quindi francamente non so se... non per questo, forse per altre cose. Onestamente io ho avuto il privilegio di essere scelto nel 2005 come uno degli Young European Leader, che è un programma che gli Stati Uniti portano avanti da oltre 60 anni e che prevede che loro ogni anno scelgano giovani italiani nel campo del giornalismo, dell'economia, della cultura, anche della politica, e li portino negli Stati Uniti per un tirocinio di circa un mese a zonzo in diverse città americane e questo poi lascia una traccia sul tuo curriculum e ti rende di fatto quello che per loro è un amico degli Stati Uniti, una persona che probabilmente se in futuro avrà qualche ruolo di responsabilità sarà considerato un interlocutore affidabile. Questo programma l'ho potuto fare perché fino al 2006 ho collaborato a Palazzo Chigi con il governo dell'epoca e c'era il governo Berlusconi. Lì probabilmente mi ero messo in mostra, avevo conosciuto le persone dell'ambasciata che poi frequentando mi hanno pensato a me come uno dei partecipanti di questo programma e da lì Ed Hunter e anche il presidente dell'epoca della Camera di Commercio americana che era Umberto Paolucci, il fondatore di Microsoft in Italia che mi aveva conosciuto in quell'epoca, aveva poi diciamo fatto un cortocircuito con l'ambasciata su un profilo corretto e sono arrivati a me. Quindi ripercorriamo un po' le tappe di questa carriera di Simone Crolla, dove è iniziata, studi dove? Ho studiato scienze politiche a Milano, indirizzo internazionale. Nessuno è perfetto. Nessuno è perfetto, ma io all'epoca pensavo di sì. Ma questo perché l'ho fatto anch'io, qualche anno prima ovviamente, comunque scienze politiche internazionali a Milano. Mi fa piacere, perché questo vuol dire che allora avevo visto bene. L'intenzione era quella di sostenere il concorso diplomatico una volta terminati gli studi, e infatti non era un parcheggio perché non mi avevano preso la Bocconi piuttosto che altrove, era proprio una cosa studiata. Mi iscrivo a un corso della SIOI che prepara il concorso diplomatico, arriva il servizio militare e dentro di me dico: beh, lo devo fare, se voglio fare il diplomatico non posso fare obiezione di coscienza, eccetera. E durante il servizio militare però mi passa la voglia di studiare, e quindi esco da lì, non faccio più il concorso e comincio a lavorare in ambito politico. Mi interesso nella mia città, che è Arona sul Lago Maggiore, mi interesso della politica locale, vengo eletto, faccio delle cose, e da lì poi la mia strada ha preso una piega verso, diciamo, il mondo della politica, che poi mi ha portato ad arrivare fino a Palazzo Chigi. E anche a Montecitorio, mi pare, anche per qualche settimana. Sì, sì, e nel 2008 poi, grazie a questo impegno che ho avuto a Palazzo Chigi, dove ero nell'ufficio del Presidente del Consiglio, quindi una posizione, diciamo, di privilegio molto interessante e molto formativa, comunque nel 2008 vengo candidato nelle liste del PDL, perché all'epoca al governo 2001-2006 c'era il presidente Berlusconi. Vengo candidato un po' come anche un riconoscimento per quello che ho fatto in passato, ma non vengo eletto. Il primo dei non eletti nella lista di Lombardia 1, quindi Milano e provincia. E poi un anno e rotti fa, più o meno contemporaneamente all'ingresso del governo Monti, si dimette una parlamentare di Milano perché va a fare altro nella sua vita, e quindi scatta il primo dei non eletti. Avevo fatto un anno e due mesi di Parlamento. Un anno e due mesi di Parlamento, ecco, come sono stati? Di solito in questo programma non ci sono politici, ma un ex politico. Adesso consegnato alla vita civile, possiamo ospitarlo e parlare anche di politica. Come è stato quest'anno e mezzo? Tra l'altro sei stato abbastanza critico anche verso la scelta del PDL di far cadere Monti alla fine. Sì, anzitutto l'esperienza è stata interessante e bella. Se uno intende la politica come la intendo io, cioè risolvere i problemi, allora quello è il posto giusto, però devi avere questo mindset, come direbbero gli americani, devi avere la voglia di starci, perché poi di fatto è un lavoro, se vuoi, anche noioso, sono interminabili le sedute, non c'è nulla che si conclude nella stessa giornata, tutto viene rimandato, eccetera, però chi ha passione politica è pane per i suoi denti. Quindi l'esperienza non mi ha affatto dispiaciuta, mi sono tolto un sacco di pregiudizi sui politici e sull'ambito politico, potrei in futuro anche ripensarci, anche se diventa più complicato, e l'esperienza del governo Monti è stata sicuramente un'esperienza utile in quel frangente storico. Poi, quando c'è stata la più o meno sfiducia del PDL a Monti, non mi è piaciuto soprattutto il timing, perché non era corretto in quel momento, prima ancora che venisse fuori l'ultima parte del decreto, diciamo, sviluppo, quello di Passera, interrompere questa esperienza. Ma infatti poi anche il PDL non ha sfiduciato Monti, la fiducia a quel decreto è stata votata e poi la storia la conosciamo, quindi certo. Era una posizione giustamente critica, ma... Ecco, da profondo conoscitore della realtà politica americana, quali sono le differenze maggiori tra la politica italiana e quella statunitense? Beh, sono francamente notevoli, sì, c'è un aspetto di pragmatismo, di concentrazione e se vuoi anche di preparazione che nella politica italiana, almeno a livello parlamentare, non è facilmente riscontrabile. Ci sono in Parlamento italiano delle persone assolutamente competenti, ma non sono la stragrande maggioranza. Ecco, la selezione della classe politica, sì, in Italia forse è affidata più al consenso verso i leader che non una vera e propria capacità, un merito, una presenza attiva all'interno della struttura sociale ed economica. Quindi su questo l'Italia ha qualche problema proprio di selezione della classe dirigente? C'è sicuramente un problema di selezione della classe dirigente. In America è diverso, non esistono i partiti, quindi la selezione è più affidata proprio al territorio, a chi emerge, a chi catalizza consenso su di sé, a chi porta avanti quelle battaglie sociali, culturali, economiche proprie del territorio che lo esprime. C'è proprio una differente concezione, anche un modo diverso attraverso di svolgere il lavoro politico. Non dico che sia meglio là, per la carità, la nostra è una democrazia parlamentare ben diversa dalla loro, però le cose là avvengono. Alla fine si lavora all'interno di un sistema e di un processo in base al quale alla fine di tot riunioni, tot sedute, tu sai di avere un risultato in qualche maniera. Ecco, quello che si pensa è che in America i parlamentari siano portatori di interessi, siano eletti perché hanno anche delle disponibilità di spesa per sollecitare il consenso, e queste disponibilità di spesa provengono dalle offerte che fanno le grandi corporation, le grandi società, le grandi imprese, e che quindi c'è un legame tra gli interessi economici e la politica molto più forte che non in Italia. È possibile, a un livello alto è sicuramente così, l'unica differenza è che è tutto molto chiaro, molto trasparente, tutto regolamentato. Il lobbying in America è assolutamente previsto dalla legge ed è disciplinato da sanzioni molto pesanti e da regole altrettanto chiare, quindi quando tu parli con un politico o con un gruppo di pressione, tu sai perfettamente che cosa stai facendo, per chi lo stai facendo e quali interessi anche economici sono in ballo. In Italia questo discorso non è ancora regolamentato, ci sono stati fatti dei passi avanti anche dallo stesso governo Monti con alcune norme comprese nel decreto anticorruzione, molte cose sono state messe in maniera più piana, più semplice da capire, anche con delle sanzioni, però non ci siamo ancora arrivati. Però non è vero che in America si fa politica solo se si hanno i soldi. Diciamo che c'è un sistema di finanziamento della politica non pubblico che quindi prevede che per forza di cose tu trovi il tuo tipo di finanziamento, naturalmente presso aziende o con il crowdfunding, cioè con sistemi anche diciamo più popolari. Però sì, la politica in America richiede un impegno economico, ma che viene assolto in maniera trasparente con una richiesta pubblica, insomma non ci si nasconde. Ecco, forse in Italia bisognerebbe trovare un metodo un po' a metà, meno in finanziamento pubblico, più agevolazioni a un finanziamento privato e maggior controllo anche degli interessi economici, anche se gli interessi economici italiani sono forse un po' più provinciali degli interessi economici americani. Beh, insomma, certo, per definizione gli americani sono globalisti e quindi insomma i loro interessi sono molto più ampi. Pensa che una delle proposte di legge che ho fatto in Parlamento era volta a istituire il prestito d'onore per studenti meritevoli per alta formazione, quindi per master, PhD eccetera, da fare all'estero ma anche in Italia, e questo prestito d'onore secondo la mia idea doveva essere finanziato dal finanziamento pubblico ai partiti, cioè togliere i soldi che diamo ai partiti eccetera eccetera e darli invece agli studenti italiani meritevoli, in modo che questo famoso brain drain, cioè gli italiani che vanno in America poi in qualche maniera siano anche vincolati a un ritorno, perché c'è una sorta di vincolo morale verso chi ti ha dato i soldi per poter fare la tua formazione. Comunque, c'è una tradizione il fatto che gli studenti italiani, alcuni ovviamente, vadano negli Stati Uniti a fare magari un anno di liceo, sì, un anno di università. Questo da molti anni è un'esperienza che molti fanno. Ecco, molti si fermano negli Stati Uniti per forza di cose. Per forza, ecco, di cose. Anche il mercato del lavoro è un mercato del lavoro diverso rispetto a quello italiano, meno rigido, che riesce a premiare, certo, più il merito, le competenze, le capacità. Certo. Ecco, certo. In questa prospettiva che cosa può insegnarci l'America? Ma è molto più dinamico il mercato del lavoro americano. Un giovane lì può veramente trovare pane per i suoi denti, può trovare il modo di mettere in pratica le sue idee grazie anche al venture capital, seed capital, alle startup che nascono. C'è un sistema che premia il talento, che premia il merito, è un sistema anche che non pone barriere tra un giovane e una persona che può aiutarti, che sia un imprenditore, che sia un finanziatore. Quindi da questo punto di vista è molto importante. Gli studenti italiani che vanno in America sono meno degli studenti diciamo di altri paesi europei, in percentuale sono meno, anche perché è più costoso, perché da noi appunto ci sono meno borse di studio eccetera, però sono di altissima qualità. Alcuni rimangono là, altri rientrano e hanno sicuramente una marcia in più. Ecco, ci sono esperienze americane, molto citato è Zuckerberg che ha fondato Facebook, ma non sono casi isolati. Sì, certamente, forse il fondatore di Facebook è un caso isolato, quelli che hanno creato Google altrettanto, ci sono alcuni piccoli casi isolati, però ci sono anche molti casi di persone che hanno avuto successo, non clamoroso, che però hanno avuto successo con piccole e medie imprese negli Stati Uniti. Certo, assolutamente. Beh, lì è la patria del possibile, e tantissimi prodotti innovativi che noi utilizziamo sono frutto anche delle idee di persone non americane, perché loro sanno attrarre i migliori cervelli. Se tu pensi a come è nata Google in un garage piuttosto che altre situazioni, e pensi all'Italia, questa cosa non sarebbe mai potuta accadere, neanche immaginare, perché se due ragazzi si mettevano in un garage a inventare una compagnia eccetera sarebbero stati arrestati per violazione delle norme sanitarie, delle norme sanitarie, esatto. Quindi alla fine è un contesto diverso. Incontri. Playing games with the faces. She said the man in the gabardine suit was a spy. Ancora con le note di Simon Garfunkel, America, riprendiamo il nostro incontro con Simone Crolla, consigliere delegato della Camera di Commercio americana in Italia. Abbiamo parlato nella prima parte degli Stati Uniti, di questa realtà diversa da quella italiana, una realtà soprattutto sul fronte del mondo del lavoro e delle imprese più dinamica, con tutti i problemi ma anche con tutte le opportunità che questo può lasciare intravedere, con grandi possibilità per i giovani. Sono molti giovani che vanno negli Stati Uniti a cercare fortuna, come sono andati in condizioni certamente diverse gli emigrati italiani all'inizio del secolo scorso. E l'America, com'è vista l'Italia dall'America? Io ti posso portare il punto di vista dei manager delle multinazionali americane che sono in Italia. Allora, lo vedono come un paese importante, 60 milioni di consumatori, sofisticati, con grandi competenze, le nostre scuole tutto sommato producono prodotti di qualità, studenti capaci, eccetera, eccetera, ma al momento lo vedono come un paese che non si sa riprendere dalla crisi e non ha una bussola per uscire da questa crisi, e quindi quando devono, facendo i loro budget mondiali, decidere se allocare un nuovo finanziamento, un nuovo investimento in Italia piuttosto che in un altro stato europeo o extraeuropeo, ecco, l'Italia la mettono on hold, cioè dicono un momento, aspettiamo se ci sono tempi migliori, perché in questa fase. E quindi l'importante adesso per i manager delle multinazionali americane in Italia è quello di mantenere l'investimento che hanno e di non smantellare, di non andare via, di non far chiudere piano piano i loro insediamenti produttivi. E questo è, diciamo, in linea generale. E poi in linea invece un pochino più particolare ci sono alcune grandi aziende, grandi corporation americane che continuano a investire. Guarda il caso dell'acquisizione di Avio da parte di General Electric, guarda cose più piccole, ma ti posso citare, se posso, il fatto della Heinz. La Heinz è famosa per il ketchup, ha rilevato tanti anni fa la Plasmon a Latina, e adesso all'interno della Plasmon a Latina ha creato il centro mondiale di competenza per il baby food. Quindi ogni tipo di baby food che viene prodotto dalla Heinz a livello mondiale viene studiato, viene brevettato e viene anche in parte prodotto a Latina. E altri esempi di questo tipo. Quindi sicuramente siamo una nazione per loro strategica, siamo un po', come si è sempre detto, una portaerei verso altri mercati, però fino a che non troviamo una via d'uscita da questa, diciamo, situazione un po', certo, d'impasse. Ecco, però non è solo la politica, l'instabilità politica, l'incertezza, c'è anche un sistema complessivo che, che si è un po' creato negli anni, anche creato un sistema di burocrazia, di giustizia che funziona male, e così via. Quindi è anche un sistema sociale che appunto forse visto dall'estero sembra ancora più incrostato, sembra ancora più difficile. Incrostato e ingessato. Ti dico, il nostro comitato della Camera di Commercio sulla Human Capital, che valuta tutte le cose che hanno a che fare col diritto del lavoro, quindi la famosa anche rigidità eccetera, ha preso la riforma Fornero sul lavoro, l'ha smontata pezzo per pezzo e l'ha rimontata in base a quelle che sono i loro input per poter continuare a lavorare e investire in questo paese. Beh, molte cose sono state, direi, stravolte. E quindi sicuramente su questo fronte del diritto del lavoro c'è molto lavoro da fare. Poi lo dicevi tu, la giustizia civile che è lentissima, la mancanza di infrastrutture, la non prevedibilità, perché ogni governo che arriva porta nuove situazioni, magari nuove leggi che vanno a cancellare le precedenti. Insomma, c'è una situazione di confusione e di punto di domanda che rende il nostro paese appunto non un paese prevedibile, e quindi come fai a prevedere un investimento, insomma. Ma avvengono ancora ancora queste ecco, cose. Ecco, questo fatto è importante che ancora ci siano ancora degli investimenti americani, che si mantengano gli investimenti che ci sono e che si guardi poi alle potenzialità del mercato italiano, anche se l'Italia poi in fondo è già abbastanza, tra virgolette, colonizzata dalle sì, grandi società estere. Sì. Abbiamo tutto il settore della distribuzione che dipende dall'estero, dalla Francia, abbiamo il settore, per esempio, delle moto, appena la Ducati è stata acquistata dall'Audi, abbiamo il settore degli elettrodomestici che in parte è svedese, in parte è americano, tra l'altro con la Whirlpool. Quindi abbiamo delle molte, ecco, l'Italia è un po' un paese colonizzato dal punto di vista economico. Beh, sicuramente sì, insomma, per quanto riguarda le grandi aziende, a parte le poche italiane che possono competere in giro per il mondo, le grandi aziende straniere hanno sicuramente fatto grandi business e grandi deal nel nostro paese, ma questo è un po' così anche in tutti gli altri paesi del mondo. Io ti posso dire che però c'è grande interesse, perché lo vediamo dal flusso anche di richieste che riceviamo, di aziende italiane verso gli Stati Uniti, e anche noi stiamo poco alla volta, in maniera magari dimensionalmente inferiore, però colonizzando gli Stati Uniti d'America. Ci sono medie aziende italiane, le nostre multinazionali tascabili, che magari certo, hanno un proprietario italiano che è lì insieme al figlio che mandano avanti, però colossi da centinaia di milioni di euro, che vanno negli Stati Uniti e fanno shopping. E ti potrei citare dei casi di successo che noi assistiamo, ma questo vuol dire che, uno, c'è un rapporto bidirezionale molto importante, due, che per quanto riguarda le aziende italiane, il mercato americano, nonostante l'Est, la Cina, il BRIC in generale stanno arrivando prepotentemente sulla scena, rimane un mercato di sbocco per i prodotti, ma anche per produrre i prodotti, direi di notevole importanza. Ecco, quest'anno è l'anno della cultura italiana negli Stati Uniti, con una serie di iniziative che stanno interessando appunto soprattutto il fronte americano per portare l'immagine della cultura italiana. La cultura italiana è uno dei punti di forza, in fondo abbiamo sotto questo profilo, non solo dal punto di vista storico, artistico, letterario, molto, diciamolo così, senza umiltà, da insegnare agli americani. Vero, e loro questo ce lo riconoscono assolutamente. Noi potremmo essere la prima destinazione turistica per gli americani in Europa, poi per i problemi già citati e sollevati che tutti conosciamo questo non avviene, ma c'è una fortissima voglia d'Italia negli Stati Uniti, della nostra cultura, delle nostre bellezze paesaggistiche, artistiche, per la nostra enogastronomia. L'Italia è la vera America e questo lo sanno anche loro, cioè, infatti capita che qualche americano abbiente, diciamo, venga a passare la sua pensione in Italia perché corona il sogno di una vita. E quindi da questo punto di vista abbiamo un vantaggio competitivo che dovremmo sfruttare ancora di più, che dovremmo comunicare ancora meglio di quanto già non facciamo, e questo poi aiuterebbe in generale anche il business e, diciamo, le economie e i posti di lavoro delle nostre realtà. Ecco, la Camera di Commercio Americana d'Italia ovviamente ha molte relazioni. Che cosa vi chiedono dagli Stati Uniti? Qual è la domanda più bizzarra che magari ti hanno fatto sul fronte italiano, magari per chiedere se... Non lo so, che cosa? Bah, domande bizzarre non arrivano quasi mai, perché gli americani sono molto metodici, quindi hanno sempre, come dire, un obiettivo ben chiaro e definito e che sia conseguibile. Poi non lo conseguono perché magari appunto il sistema farraginoso burocratico italiano non glielo consente. Però, diciamo, le richieste che ci arrivano sono sempre di natura, come loro amano definire, di natura di advocacy, quindi di relazioni con le autorità o con le istituzioni in modo che un problema si possa risolvere. Loro, cioè, nessuno vi ha chiesto di comprare il Colosseo, insomma, no, purtroppo a noi no, magari so, 50 anni fa potevano chiedere, se no a noi non ce l'hanno chiesto questo. Quindi ecco, un rapporto quindi di conoscenza, soprattutto di sviluppare una conoscenza, di capire le opportunità che ci possono essere in Italia. Sì, noi veniamo utilizzati dalle aziende americane già presenti nel nostro paese per fare, diciamo, networking e lobbying verso le istituzioni. Ad esempio, la proprietà intellettuale è un punto importantissimo per tante aziende americane e anche per il governo americano. L'Italia è nella loro watch list come paese non affidabile su questo punto. Le loro tematiche sono sempre di questo tipo. Poi, quando devono fare un investimento, rilevare un'azienda, eccetera, non si fanno problemi, vanno diretti alla fonte e, se c'è da trattare, trattano anche senza bisogno del nostro aiuto. Ecco, comunque ci considerano ancora una affidabili, almeno come paese, cioè l'immagine dell'Italia, ogni tanto quelli che riescono un po' a fare... Assolutamente no a quello che stavi dicendo adesso. Cioè, i trucchi, cose. No. Siamo sicuramente un paese, per quanto riguarda il business, considerato molto seriamente, siamo attendibili, caso diverso può essere per la politica, ma anche quella, diciamo, nel tema economico non c'entra più granché. Noi per gli Stati Uniti siamo un partner importantissimo, anzi siamo forse il primo partner da questo punto di vista, perché gli interessi sono tali e tanti per cui noi nell'anno passato abbiamo investito circa 23 miliardi di euro negli Stati Uniti, questo è lo stock, diciamo, degli investimenti, gli Stati Uniti da noi circa 25 miliardi di euro. Quindi la bilancia commerciale è assolutamente per noi positiva. Questo è un ottimo dato, magari inferiore agli anni passati, ma comunque la crisi si è fatta sentire, però vuol dire che il rapporto è saldo. In più si sta lavorando, e l'Italia avrà un ruolo da protagonista in questo, sulla definizione di questo Free Trade Agreement tra Unione Europea e Stati Uniti d'America, che potrebbe vedere la conclusione, tutto questo percorso, nella fine del 2014, quando l'Italia avrà la presidenza della Comunità Europea, sì, il semestre italiano. Sì. E allora, insomma, questo è anche una sfida per la nostra politica, diplomazia ed economia. E è chiaro che riuscire a siglare un patto storico di questa portata sotto l'egida, diciamo, del semestre italiano sarebbe un auspicio notevole per tutti. Il presidente Obama, sotto questo profilo, che è il secondo suo mandato, quindi il suo ultimo mandato, è europeista. Allora, sotto questo profilo ti dico di sì, perché questo fatto del Free Trade Agreement è stato citato da lui, cosa mai successa prima nel suo primo mandato, durante il discorso di insediamento del dopo elezioni. Quindi vuol dire che in un certo senso è assolutamente europeista. Un'ultima domanda, Simone Colla: se ti trovassi in futuro a presiedere la Camera di Commercio italiana in America, quale sarebbe la tua prima iniziativa? Di rivoluzionarla, di cambiarla e di crearla simile a quella americana, perché oggi non è così. Oggi non è così, cioè l'Italia è ancora un po' timida quando va sui mercati esteri. Assolutamente, andiamo in maniera troppo divisa, tutti con grandi capacità, grandi meriti, grande valore, ma rimanendo tutti divisi non riusciamo a esprimere massa critica come gli americani fanno. In Italia loro hanno un italiano, noi in America abbiamo un italiano. Dovremmo avere un americano là, perché possa conoscere e portarci molto più addentro alle faccende. Questa può essere una strada, uno dei problemi appunto per l'industria italiana è quella di essere più aggressivi in fondo verso i mercati esteri, e quello che si rimproverano le ambasciate e i consolati italiani all'estero è di pensare molto alla politica, molto all'immagine, ma poco poi alle cose concrete. Può capitare. Grazie mille, grazie per questo incontro con Simone Crolla, consigliere delegato della Camera di Commercio americana in Italia. Grazie anche a Filippo Reggi in regia, Luca Cremonesi in redazione. Vi ricordo che le precedenti puntate di Incontri, così come tutti i programmi di Radio 24, possono essere riascoltate dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.